in primo piano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Leonello Mancini, come dicevamo poc'anzi, salutandoci con Alessandro Milan. Vorrei iniziare la lettura dei giornali, oggi una lettura molto articolata e molto ricca. Cercherò anche di segnalarvi dei reportage che ho trovato interessanti, almeno nella loro titolazione e nell'idea che li ha guidati, anche se ovviamente non l'ho letti, perché i reportage, come certamente sapete, sono degli articoli molto lunghi. Il Sole 24 Ore ci propone un'apertura che non troviamo su altri giornali ed è accordo militare USA-India. New Delhi però boccia ogni intesa su clima ed effetto serra. Clinton firma contratti per le armi high-tech e le aziende statunitensi costruiranno due reattori nucleari. Ovviamente nel parlare di Clinton parliamo di Hillary Clinton, non c'è dubbio, e il tema che il Sole 24 Ore ha scelto per la sua apertura è interessante, al di là delle implicazioni di tipo militare strategico, ma soprattutto per un fattore economico, perché significano delle gare intorno ai 10 miliardi di dollari, insomma tutti elementi ovviamente letti in chiave di far ripartire l'economia. Di economia e di crisi parleremo ancora poi vedendo altri giornali, perché ci sono dei punti di vista abbastanza interessanti, anche di approfondimento nell'affrontare questo tema che è sicuramente economico, ma più in generale è un tema che ci prende anche da un punto di vista proprio degli stili di vita e della possibilità di continuare a vivere come abbiamo fatto fino adesso, dei consumi legati all'ambiente e alle risorse naturali, insomma è tutta una serie di temi che si intrecciano e che colgo l'occasione per rilanciare anche attraverso questo libro pubblicato da poco insieme al Sole 24 Ore, che raccoglie le lezioni per il futuro, ovvero tutte quelle riflessioni di economisti, filosofi, uomini di cultura e di impresa che hanno ragionato intorno al momento in cui stiamo vivendo. Uno degli effetti della crisi, ancora sul Sole 24 Ore, la notizia che troviamo in fondo alla pagina: spaghetti in salsa italiana per le porcellane Rosenthal. E la notizia è che Saint-Bonnet, l'azienda piemontese, Saint-Bonnet rileva la prestigiosa società tedesca. Il campo della ceramica, le ceramiche Rosenthal hanno un nome che tutti conoscono bene, sono diventate italiane perché un'azienda italiana le ha proprio salvate dalla crisi, per l'appunto, si torna sempre lì. Sempre in prima pagina del Sole, un articolo di Marco Peruzzi sullo scudo fiscale, un articolo che rinvia poi a pagina 4, la pagina interamente dedicata ai 5 dubbi sulla strada dello scudo fiscale. Il tema di questi dubbi sono il tipo di aliquota, il tipo di accertamento, la possibilità che hanno il dovere che hanno le banche in chiave antiriciclaggio di segnalare certi, diciamo, movimenti di denaro, che quindi mal si sposa con una sorta di sanatoria per far rientrare questi denari. Insomma, ci sono una serie di norme e di questioni ancora da raccordare perfettamente. Ma andiamo subito a pagina 23 del Sole 24 Ore, dove nella sezione Mondo e Mercati troviamo una notizia che mi sembra una buona notizia. Vi riporto a quello che dicevo poc'anzi rispetto alla crisi. Il titolo è: Pechino investe sull'auto verde. Così la piccola Hafei sfida i big mondiali. Qui partiamo alla pari. Luca Vinciguerra scrive questo articolo in cui dice: da Harbin a Shanghai, viaggio tra i costruttori cinesi che in ritardo nelle vetture tradizionali scommettono sulle ibride. Complici i forti incentivi statali, il paese si candida a diventare il primo produttore mondiale di automobili ecologiche. Perché è importante? Perché, come sapete, se la tendenza in cui si inserisse la Cina fosse la stessa che ha guidato il mondo in tutti questi anni, se ogni cinese, cioè, si comprasse nell'arco di alcuni decenni un'auto o due auto, penso che avremmo difficoltà a respirare anche da questa parte del mondo. Ecco perché quindi la scelta dell'auto ecologica è qualcosa che interessa assolutamente tutti. Leggo un breve passo di Luca Vinciguerra. La sfida dell'auto elettrica invece è a metà dell'articolo, è tutta da giocare. Qui i cinesi non scendono in campo da una posizione di svantaggio. Tutti i concorrenti planetari partono da zero perché la ricerca e sviluppo sulle tecnologie da applicare alle vetture verdi è appena cominciata e sulla scena mondiale non è ancora emerso un paese leader. La Cina si candida e si candida a diventarlo e non ne fa mistero. Quindi una buona notizia, perché questa scelta della Cina, se condotta avanti, sicuramente farebbe veramente piacere e comodo a tutto il mondo, noi compresi. Vi dicevo prima dell'apertura del Sole 24 Ore, tra India e Stati Uniti, patto su difesa nucleare, in arrivo mega commesse per i grandi gruppi americani del settore, prima gara da 10 miliardi di dollari per 126 caccia. In questa stessa pagina 10 in cui abbiamo questa notizia, ne abbiamo altre due, confessa l'attentatore di Mumbai, vi ricordate quell'attentato, quella lunghissima assedio al grande albergo di Mumbai, adesso non ricordo quando fu, ma comunque alcuni mesi fa, a novembre, per due giorni e tre notti Mumbai fu trasformato proprio in un campo di battaglia. Bene, uno di questi terroristi sopravvissuti ha confessato. Poi un articolo di Marco Vassari da New York: riformare le carceri afghane, per il Pentagono sono centri di reclutamento dei talebani. L'offensiva ISAF, che sarebbero le forze alleate, negli scontri con i ribelli sono morti altri 4 soldati americani e un inglese. Precipitato un tornado britannico vicino a Kandahar. C'è poi una piccola tabella dei caduti nella guerra in Afghanistan, che vi ricordo è iniziata nel 2001, nel novembre, appena dopo gli attentati dell'11 settembre, quindi sono ormai 8 anni che va avanti. Il numero maggiore di morti sono statunitensi, 746, e noi siamo per fortuna in fondo alla classifica con comunque 15 morti. Ancora dal Sole 24 Ore vi voglio segnalare una pagina 15 in cui si dà conto di un tema che troveremo su tutti gli altri giornali, cioè la vicenda degli attentati, della riapertura delle indagini sugli attentati di Capaci e Via D'Amelio, ovvero Falcone e Borsellino. Procure divise sulle parole di Riina è il titolo. Napolitano, le ultime rivelazioni da soggetti discutibili, sia la magistratura a vagliare. Il PM di Palermo, Ingroia, smentisce il procuratore di Caltanissetta Lari. Il boss ha mandato messaggi ad altri, non ai giudici. Questo è l'articolo principale di questa pagina, ma forse la parte più interessante, che può così essere utile a quanti non seguono quotidianamente questo tipo di vicende, è il papello e lo sfregiato, i colpi di scena sulle stragi di Palermo, ovvero un lungo articolo in 6 domande e 6 risposte che scrive Nino Amadore da Palermo, in cui spiega, diciamo, i fondamenti di questa vicenda, i fondamentali, quindi che cos'è il papello, chi è lo sfregiato, chi è il signor Franco, che cosa ha detto di nuovo l'aspirante pentito Gaspare Patuzza e così via, Spatuzza e così via dicendo. In ogni caso, in questo titolo del Sole 24 Ore troviamo l'essenza, io credo, di questa vicenda, al di là di ciò che dice Massimo Ciancimino o questo Spatuzza o il messaggio di Salvatore Riina, e cioè Napolitano che dice: attenzione, le ultime rivelazioni su queste vicende vengono da soggetti discutibili e quindi i magistrati stiano attenti, valutino attentamente. Passo velocemente per l'Avvenire, lasciando quindi il Sole 24 Ore. All'Avvenire vi segnalo uno di questi reportage di cui parlavo prima, a pagina 3, è un tema che l'Avvenire ha solo lui. Per gli indios brasiliani uno sterminio silenzioso, così imprese e latifondisti mangiano, tra virgolette, le loro terre. La denuncia dei missionari della Chiesa e delle ONG. È in atto una politica di emarginazione e discriminazione che non esclude il ricorso alla violenza. Nel mirino sono soprattutto le aree dove si può lucrare sull'allevamento del bestiame e la produzione di soia e canna da zucchero, ma c'è chi resiste e riesce a restare nelle zone native. E in fondo alla pagina, questo reportage, c'è un altro articolo intitolato "Che delusione da Lula, altro che difensore dei deboli". Torniamo alle nostre alle nostre, ai nostri giornali, alle nostre vicende. La Repubblica, l'apertura di Repubblica, anche queste intercettazioni, lo vedremo sugli altri quotidiani come il Corriere e la Stampa, intercettazioni serve un'intesa, e sono le parole del Presidente della Repubblica, che si difende anche dagli attacchi di Di Pietro. Il Presidente chiede ai poli un confronto più civile. Di Pietro lo attacca sul pacchetto sicurezza, excusatio non petita, cioè a dire... quando Napolitano che dice chi mi critica non conosce la Costituzione, beh, Di Pietro dice bene, è una excusatio non petita, ovvero uno che si giustifica senza esserne richiesto. Grande foto, due grandi fotonotizie, una che rinvia al reportage di Federico Rampini che troviamo nelle pagine interne, nella trincea della paura tra i ribelli dello Xinjiang, qui si riferisce agli scontri in Cina e ai morti che hanno costretto, vi ricordate, il presidente cinese a lasciare addirittura il G8 dell'Aquila per tornare in patria. E l'altra foto, ci sono Silvio Berlusconi e la Daddario, perché un altro giornale del gruppo De Benedetti, l'Espresso, ha pubblicato i nastri, il sonoro, sul sito dell'Espresso si trova il sonoro delle conversazioni registrate da Patrizia Daddario a Palazzo Grazioli e non solo. E quindi Berlusconi e Daddario, ecco i nastri, virgolette, aspettami nel letto di Putin. Su questo tema La Repubblica è l'unico giornale che riporta proprio il domanda-risposta di queste scritte, di queste intercettazioni. Vi leggo solo l'inizio dei due articoli che poi proseguono nelle pagine interne. Uno di Giuseppe D'Avanzo, che dice «L'autunno del patriarca è il titolo. I documenti sonori resi pubblici dall'Espresso dicono che Patrizia Daddario, prostituta, ha detto la verità e Silvio Berlusconi, capo del governo, ha mentito». Accanto l'articolo di Michela Marzano, il titolo «Quando il potere è senza maschera», e dice «Nel famoso romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, il giovane Dorian fa un patto col diavolo e si illude di poter passare indenne, di poter attraversare indenne il tempo che passa». Quindi il riferimento è abbastanza chiaro. Sempre in prima pagina della Repubblica troviamo il riferimento alla parte, diciamo, al fisco, controlli spia nelle banche per stanare gli evasori. Oggi la fiducia dell'esecutivo sul decreto anticrisi. E nelle pagine interne troviamo poi la specifica di questi temi, ed è al fisco i dati Banca Italia, Consob e ISVAP, fiducia sul decreto, via agli sgravi alle imprese, ridotta la tassa sull'oro. E così ci sono una serie di elementi che disegnano quello che potrebbero diventare, forse dovrebbero diventare, i controlli fiscali sugli italiani, in modo da evitare questa fuga di soldi che si trasforma in evasione fiscale, che si trasformano in minori entrate per lo Stato, che si trasformano in una ossessiva invece raschiamento di portafoglio di quelli che delle tasse le pagano. All'interno di Repubblica troviamo nella R2, cioè Repubblica 2, il diario, qualcosa che ha a che fare con la influenza che di cui in questi giorni parlano tutti, l'influenza A. Il titolo di questo lavoro è avviato da Francesco Merlo, poi ci sono anche degli altri interventi come vedremo, è «Vaccino, quando la medicina è nelle mani della politica. Il virus dell'influenza suina provoca risposte diverse da parte dei governi e le possibili scelte sanitarie fanno discutere le opinioni pubbliche». Accanto troviamo due articoli, uno di Giorgio Cosmacini, «La scienza illuminista, il significato della sconfitta del vaiolo», e tra l'altro dice «Si aprì un dibattito tra chi sosteneva una nuova pratica basata sulla razionalità e chi era contrario, sostenendo l'argomento che il corpo come l'anima doveva purgarsi dei propri peccati», cioè quindi il vaccino sul vaiolo visto come un'uscita dall'oscurantismo. Accanto ancora Adriano Prosperi, «Il bacillo della paura, chi sono gli untori di oggi?», e dice «La peste nera devastò l'Europa tra il 1347 e il 1350. Le immagini di quell'incubo si sono radicate nelle diverse culture, ne hanno influenzato il linguaggio e hanno prodotto tante forme di arte e poesia». Ecco che mi pare che Repubblica affronti in questa maniera così vasta e approfondisca un tema che credo ci interessi tutti. Abbiamo forse un po' più tempo per leggere delle cose un po' meno mordi e fuggi, quindi dedichiamo questi giorni di luglio anche a leggere più attentamente e ad approfondire, a pensare, a riflettere su dei fenomeni che, ripeto, sono mondiali, se ne parla per un periodo come una vampata di fuoco, poi non se ne parla più, scompaiono, ecco, un po' di riflessione forse ci fa bene. Ancora da Repubblica, sempre sul tema delle stragi e della mafia, c'è un'intervista al procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, una lunga intervista di Bolzoni e Viviano, i due giornalisti che hanno avviato, con i loro articoli, hanno aperto questa questione. Vi invito a leggerla, anche se è circa mezza pagina. Vi leggo solo una domanda al volo. Procuratore Lari, che fine ha fatto l'agenda rossa di Paolo Borsellino? L'hanno fatta sparire. Chi, secondo lei? Non certo i mafiosi. Il furto dell'agenda rossa di Paolo può essere stato ispirato o organizzato da un altro livello. Con questo sospendiamo un attimo la nostra rassegna stampa per dare le notizie sul traffico. In primo piano. Prima di lasciare definitivamente la Repubblica, vi segnalo un altro articolo su cui soffermarsi, perché è un altro articolo che fa riflettere, una ampia intervista a pagina 38 a Luisa Ranieri, l'attrice lanciata dallo spot di Antofagaldo, debutta a teatro con l'Oro di Napoli e recita al cinema con la Redgrave. Una carriera costruita con tenacia, bisogna faticare per arrivare al risultato. Il titolo è «Ragazze, con le raccomandazioni non sarete mai vere protagoniste». La serie a cui si riferisce questa intervista, è una serie che si apre oggi con questa intervista per l'appunto, è Le Antiveline. Ecco, io penso che ci sia materiale anche qui per pensare. La Stampa, grandissima fotonotizia, La Stampa, giornale piemontese, le montagne sono importanti. Allora, una grande fotonotizia di Cristina Castagna, l'infermiera di Vicenza che è morta, l'avrete visto in tutti i telegiornali, su quell'8000 metri che si chiama, se non ricordo male, Broad Peak, K3, e che aveva lasciato scritto: se mi accade qualcosa, lasciatemi sui monti. Ecco, ci sono una serie di considerazioni su questo biglietto, su che cosa significa questo amore per il rischio, questo amore per la montagna, come dire, come nasce, a cosa serve. E poi su Corriere della Sera vedremo che su questo scrive qualcosa Mauro Corona, quello scrittore, scalatore, camminatore, uno scampato del Vaillant, della strage del Vaillant degli anni 60, che vive da solo in mezzo ai boschi, scolpisce il legno e, ripeto, scrive libri, e lui rifletterà, lo leggeremo tra poco, su questo approccio di questa ragazza, di questa bella ragazza, un trentenne, con la montagna. Ma La Stampa dà più rilievo di altri giornali ad alcuni temi che sono il mercato nero degli ovocidi, 30 arresti a Bucarest, il traffico illegale tra Romania e Israele era diretto a molte donne italiane ricoverate nelle cliniche della fertilità. Troviamo a pagina 13 questo lungo articolo. Blitz nella clinica della fertilità, scoperti in Romania un mercato nero di ovuli, tra i clienti molte coppie italiane. È una notizia abbastanza sconvolgente, giovani donne romene reclutate per vendere gli ovociti da impiantare nelle pazienti. Io temo che qui ci sia un misto tra un'organizzazione criminale che ha pensato di fare del business su un problema reale che forse in altri paesi, tra cui l'Italia, viene affrontato in una maniera che la gente, le persone, le coppie non considerano adeguata. La pagina comunque di Repubblica e della Stampa, la prima pagina, si apre con un articolo di fondo di Francesco Lalicata, uno dei massimi esperti di cose di mafia che ci sono attualmente in Italia. L'articolo è «Il padrino non parla mai a caso», e all'interno, dopo un'intervista anche a Luciano Violante, l'intervista a pagina 14 intitolato «Totò Riina lancia messaggi in codice», questa è la frase di Violante. Bene, la Licata analizza il perché in questo momento escono queste notizie sulla trattativa dello Stato degli anni 90 con la mafia, sulla presunta trattativa, perché il figlio di Ciancimino adesso diventa un collaboratore così credibile, quello stesso di cui Napolitano dice diffidate, perché in questo momento? E allora la Licata conclude la sua analisi in questo modo. Resta un fatto, Riina ha dovuto, tra virgolette, parlare, anche a costo di dover in qualche modo certificare l'esistenza sempre negata della mafia, spingendosi ad ammettere di essere stato non coprotagonista di una trattativa, ma oggetto. L'altro fatto riguarda Ciancimino e la sua capacità dirompente, non si sa quanto gestibile dallo stesso teste a tutto campo, coinvolge politici in una normale storia di corruzione, ma poi caccia dal cilindro tre documenti inediti, tre lettere che la mafia avrebbe inviato al Presidente del Consiglio in un periodo compreso tra il 91 e il 95. L'avete forse ricorderete dalla lettura dei giornali dei giorni scorsi, queste lettere in cui in un modo appunto mafioso, molto indiretto, ma chiedevano una delle reti a Berlusconi, o come così insomma riporta questa lettera scritta a mano. A differenza del papello, dice ancora la Licata, si ha prova dell'esistenza delle tre lettere che si apprestano a entrare nel processo d'appello contro il senatore Dell'Utri, con l'immancabile conseguenza di un coinvolgimento almeno di immagine del Premier. Un tiro mancino dalla Sicilia che proprio in questo momento comincia a far mancare a Berlusconi il tradizionale plebiscito, dirottando il consenso sul Partito del Sud che governa in Sicilia stravolgendo ogni rapporto di forza e affari. Questa dunque è la lettura tra il criminale e il politico di Francesco La Licata, una lettura che, ripeto, essendo La Licata persona che da tanti anni si occupa di questi temi, va forse letta con attenzione. Anche ora fisco, tasse, quello che il governo sta per fare contro l'evasione fiscale, a pagina 6 e 7 della Stampa. A pagina 17, a pagina 19, ancora la Stampa sottolinea un tema che hanno altri giornali più in piccolo. I giapponesi, Italia ladrona. Un giornale di Tokyo scrive: basta con i furti in taxi al ristorante, cambiamo destinazione. I tour operator a Roma dicono: riceviamo decine di segnalazioni di visitatori che sono stati turlupinati. La difesa dei ristoratori: i truffatori sono ovunque, noi siamo nella media UE, spesso più a buon mercato. Mi auguro come prezzi di ristorante, non come truffatori, insomma qui dal titolo non si capisce molto bene. Comunque questa è una pagina intera, pagina 19 della Stampa, sempre dalla Stampa, sempre legata al discorso della montagna. Vi segnalo una pagina, la pagina 43, così la musica sale in vetta, dura da 15 anni il successo dei suoni delle Dolomiti, il festival più alto dell'estate, note sui monti che sono patrimonio dell'umanità. Interpreti e spettatori insieme sui sentieri con lo zaino in spalla, poi i concerti fra prati e rifugi. Già Mahler cercava in Tirolo l'urlaut, il suono originale che l'orecchio non può cogliere. E qui ci sono tutti i dettagli per chi si trovasse in montagna e volesse ascoltare i concerti sulle Dolomiti. Dunque dice che oggi alle 14 se la musica avviene al passo Lavazze sull'Atemar. Il Corriere della Sera, in un paio di minuti vorrei dirvi che la prima pagina è sempre dedicata al dialogo sulle intercettazioni tra maggioranza e opposizione cui invita il Presidente della Repubblica. In alto una notizia, qui ecco, sottolineata dal Corriere più di altri: la Turchia senza fumo, una vittoria islamica. Un articolo di Bedri Baykam, che è uno scrittore turco, il quale dice che la Turchia senza fumo non sarà più la stessa, chi non ha mai detto fuma come un turco, e spiega anche come il governo faccia questo non per la tutela della salute dei cittadini, ma perché è troppo ligio alle regole islamiche che proibiscono ogni cosa faccia piacere. Corona, vi dicevo di Mauro Corona sulla ragazza che ha lasciato questo desiderio, questo biglietto con scritto «Lasciatemi alla montagna quando morirò», scrive Mauro Corona: «Una ragazza prima di partire per scalare uno dei 14 giganti del pianeta lascia un biglietto. Nel caso dovesse morire raccomanda di essere lasciata lì, nel grembo della montagna che l'ha voluta con sé. Chi ha salito e sale vette col cuore, non con i muscoli, può solo apprezzare questo desiderio, questo testamento di ultima volontà. Per quel che mi riguarda, dice Mauro Corona, anch'io vorrei essere lasciato dentro la montagna, sepolto a cielo aperto. Quale luogo migliore per riposare in pace, lontano da lumini, fiori, lapidi, pesanti tonnellate e falsi pianti di amici? Con questo io vi saluto e vi do appuntamento a domani.